Distinguere fra notizia e propaganda, come si sa, è sempre più difficile, no? La propaganda spesso sfrutta la notizia, per così dire ci specula parassitariamente sopra, e visto che la cosa funziona, altrettanto spesso è legittimo il sospetto che la notizia sia stata preparata ad arte perché poi ci si possa speculare sopra, per l'appunto. Stando così le cose, non c'è da stupirsi se nei giornali, voi per caso, voi per inettitudine di qualcuno, se nei giornali capitino a volte malaugurati incidenti. Un mese fa, a pagina 11, il Corriere della Sera pubblicava due notizie dedicate agli appassionati del volo. Più in piccolo era emergenza a Palermo, un aereo in avaria. E più in grande, riprendendo dalla prima pagina, terrore sul DC-9. Stiamo precipitando, il comandante evita la collisione, la torre di controllo ci ha avvertiti in ritardo, numerosi giornalisti a bordo, eccetera, eccetera. Tutte vicende, fortunatamente, finite bene. Questo a pagina 11. Ma era interessante anche pagina 10. Era una pagina intera di pubblicità, ove si leggeva quanto segue. Una cena magnifica. Anche alle 3 di notte, a 9.000 metri d'altezza, potete scegliere come nel migliore ristorante. Magnifica, con tariffe business e trattamento di prima classe, vi farà toccare il cielo con una forchetta, eccetera, eccetera. Con arguzia estrema, quella stessa Alitalia, responsabile del DC-9 della pagina a fronte, invitava il popolo ad affidarglisi ciecamente per trascorrere insieme allegre serate. Macabro incidente retorico, c'è da chiedersi effettivamente a quale Einstein delle comunicazioni di massa sia dovuto e cosa avrebbe fatto costui nel caso la vicenda della cronaca non avessero avuto esito positivo. Qui, tuttavia, si tratta palesemente di un caso in cui è quantomeno altamente improbabile che la propaganda abbia voluto speculare sulla notizia. Più dubbio il caso di pochi giorni fa. Stesso giornale, e coincidenza davvero curiosa, ancora pagina 10 e pagina 11. Allora, a pagina 10 c'è una notizia dal Bronx di Nuova York che sembra fatta apposta per il Bronx di Nuova York. Una prostituta ha tagliato il pene al cliente moroso nel senso che non pagava. Tragedia nella tragedia, le scrupolose ricerche della polizia nel quartiere non hanno condotto né al ritrovamento della fiscale fanciulla né del trancio di pene in questione. A pagina 11, a tutta pagina, c'è la pubblicità delle calze Rede. Potere alle gambe è lo slogan. C'è ovviamente una fanciulla con le gambe fuori ed una sua frase che vorrebbe dirla lunga. Fra virgolette, dice la fanciulla, mal di testa, gastrite, sciatica, amore, non ne posso più di vederti soffrire. Evidentemente lei, povera cara, che sprizza vitalità da tutti i pori e soprattutto da quelli delle gambe, ha una piaga per compagno e decide di intervenire radicalmente per porre fine alle sue sofferenze. Infatti, particolare non trascurabile nella vita domestica, lei ha un'accetta in mano. Ora, mettere in rapporto questa promessa di tavola anatomica alla buona con la notizia a fronte, ovviamente, è un gioco da ragazzi. Può restare il dubbio. Hanno creato la notizia per rafforzare il messaggio pubblicitario? O la notizia l'avevano lì da qualche giorno e ce la somministrano in attesa della pubblicità giusta? O è un puro caso, Compresa la scelta delle pagine, è un puro caso. So che la maggior parte, ottimista e inguaribile, sarebbe portata a parlare di mera casualità. Comprensibilmente, perché lei La fanciulla che rivendica ad accettate la propria gioiosa libertà parla di tre malanni del suo uomo, tre malanni ben precisi. Parla di mal di testa, gastrite e sciatica. Non accenna neppure all'uretrite, per esempio.